La classifica dei 20 dischi più trasmessi della settimana su CRM Happy Radio. Ciao bella gente, buonasera, benvenuti a un altro appuntamento qua su CRM Happy Radio con Speedy Top, la classifica dei 20 brani più ascoltati durante l'arco della settimana. Alla voce sottoscritto Stefano Scalia, alla regia abbiamo il mitico Antonio Glorioso, il nostro DJ. Alla parte tecnica ringraziamo Marco Nicolosi, che con i suoi effetti speciali riesce sempre a stupirci. Poi questa sera, ragazzi, non so se avete visto, qua di fianco a me abbiamo un ospite d'eccezione direttamente dal Polo Sud, è venuto a trovarci il nostro caro Babbo Natale. Qua seduto di fianco a me ci fa compagnia, ecco, da casa, che ci potete tranquillamente vedere dal nostro sito www.crm.it. Potete anche vedere in streaming, appunto, tramite le webcam, il sottoscritto che è qua in radio a questa diretta. Bene, ci potete contattare anche direttamente dal nostro sito inviandoci un SMS al 335 56 37 251, oppure ci potete direttamente chiamare allo 0921 92 32 92. Altrimenti ci potete scrivere su Facebook, e se non siamo nei vostri contatti mi raccomando aggiungeteci, basta che trovate la nostra pagina con il nome CRM Happy Radio, mettete aggiungere amici e noi vi accetteremo. Così ci potete seguire anche tramite il nostro Facebook, che ormai chi è che non ce l'ha? Ce l'abbiamo tutti, sui PC, sui telefonini, ancora un po' lo troveremo in allegato anche quando andiamo a comprare i frigoriferi direttamente. Bene, sentite in sottofondo la bella musichetta che abbiamo messo questa sera, di Natale, perché ormai manca poco, anche il clima sembra quello giusto a quanto pare, perché ieri si camminava in magliettina, oggi praticamente siamo tutti quanti bardati con cappellini e sciarpe, compreso il sottoscritto che questa sera è venuto in radio con un cappellino e la sciarpa perché fa veramente freddo. Sono uscito da casa che c'erano 10 gradi e veramente un vento gelido, quindi ragazzi il clima è quello giusto. Tra pochissimi giorni è Natale. Antonio, tu hai già fatto i regali di Natale? Sì, hai fatto qualche regalo? A me cosa mi regali? Niente, grazie. Marco, a te un bel sacco di carbone, non te lo leva nessuno quest'anno, sei stato veramente monello e briconcello. Bene, ma andiamo avanti, passiamo immediatamente alla classifica. Questa settimana il nostro Antonio ha realizzato in modo veramente eccellente, direi, mettendo anche un paio di canzoni che a me piacciono parecchio. E partiamo immediatamente con la numero 20, dove troviamo il mitico Ligabue con Ora e Allora. Si fa rubare ora e allora. il suo gioco, un conto è averlo capito. E questa era la nostra numero 20, Ligabue, il mitico Liga con Ora e Allora. Bene, notiziona, la cantante Giusy Ferreri ha pubblicato un lungo messaggio ai fan sul suo profilo di Facebook, raccontando le ragioni del suo allontanamento dalle scene e attaccando il suo staff addirittura. Dopo aver recuperato un login per accedere al suo profilo ufficiale, cosa che le era stata preclusa finora, Giusy ha scritto una lettera aperta ai fan raccontando di essere in riabilitazione dopo un'operazione alla gola subita lo scorso settembre per rimuovere un polipo. Operazione riuscita, sebbene tenuta nascosta al pubblico fino ad oggi. Nella missiva è contenuto anche un duro sfogo dell'artista che rivela: operata per un polipo, ho il sistema nervoso a pezzi. Il mio team non mi salvaguarda. Mando aff puntini puntini tante persone. Quindi è stata un attimino difficile questa riabilitazione per lei, si è anche risvegliata un attimino nervosetta. Comunque io adesso devo dare la linea alla regia per qualche istante, ma torno da voi tra pochissimo. Ciao bella gente. E questa era la numero 19, una canzone che a me piace tantissimo, Ben West Beach, Something for the Weekend. Questo pezzo qua ci metterà un bel po' uscire dalla classifica, perché è bello, è ballabile, a me poi è un tipo di musica che piace veramente tanto. Bene, notizie su notizie, dopo la top 10 delle donne del 2011, cantanti ovviamente, abbiamo stilato a pubblicare anche una top 10 dei maschietti della scena musicale internazionale che hanno saputo scaldare i cuori e far parlare di sé, per meriti artistici e non naturalmente, nel corso dell'anno. Facciamo una classifica a tre personaggi alla volta, dai. Alla posizione numero 10 troviamo dei Red Hot Chili Peppers, esce il primo album post frusciante I'm With You ed è subito un successo planetario, il buon sangue dei RHCP non mente. Questa è la posizione numero 10, poi andiamo avanti con le altre ma lo faremo successivamente. Adesso passiamo alla classifica e passiamo alla canzone numero 18, Bruno Mars, Marry You. Look trash, got a pocket full of cash, we can blow. Shots of patrol, and it's on, girl. Don't say no, no, no, no, no. Just say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. And we'll go, go, go, go, go. If you're ready, like I'm ready. Cause it's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey, baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes? Bene, questa era la posizione numero 18, Bruno Mars, Marry You, che tra l'altro è presente anche in questa classifica, la classifica appunto degli ometti, dei gruppi che hanno fatto parlare molto di loro nell'anno 2011. Alla posizione numero 9 troviamo i Coldplay, e i soci hanno marcato il loro ritorno sulle scene con una serie di successi, è vero, ne hanno fatti veramente tanti. Alla posizione numero 8 Kanye West e Jay Az, la coppia d'oro dell'hip hop che si è fusa nel 2011 per generare una perla rara del genere. Poi al numero 7 troviamo Lenny Kravitz, un tour di grande successo e un album, Black and White America, capace di sfornare successi come Stand, lunga vita al rock and roll. Poi gli altri ve li diremo successivamente. Dobbiamo fare anche dei saluti, dobbiamo salutare Alessandra da Cefalù che ci sta ascoltando da casa direttamente dalla sua cameretta già col pigiamino, e dobbiamo salutare anche la carissima Giulia che ci ascolta da Faenza. Ciao Giulia, un abbraccio. Andiamo avanti con la classifica, passiamo alla numero 17 dove troviamo Gianluca Grignani, Un ciao dentro un addio. Va bene così, me ne vado, oh, Abbiamo ascoltato la numero 17, Gianluca Grignani, un ciao dentro un addio. Bene, tornando alla classifica dei gruppi, insomma, che hanno fatto parlare di sé nel 2011, troviamo alla posizione numero 5 il mitico Pitbull, che ci ha fatto ballare tantissimo l'estate passata. Inutile negarlo, il suo album Planet Pit è stato un successo globale. Tante le hit che vedono protagonista Pitbull nel 2011, da On the Floor insieme a Jennifer Lopez, lo ricordiamo tutti, bellissimo pezzo, a Rabiosa insieme a Shakira per l'appunto, passando per la recentissima Rain Over Me featuring insieme a Mark Anthony, che tra l'altro ce l'abbiamo anche noi in classifica alla posizione numero 4, ve la svegliamo dopo, ma andiamo avanti. 16 Pitbull insieme a Mark Anthony, Rain Over Me. Questa era la numero 16, Pitbull, insieme a Mark Anthony, Ran Over Me. Infatti era nella classifica anche dei personaggi che nel 2011 hanno fatto parlare di loro. Alla posizione numero 4 troviamo David Guetta, ha fatto ballare tutti noi, e questa è veramente una grande verità, coinvolgendo in mirabolanti collaborazioni artisti come Florida e Nicki Minaj, Tayo Cruz, Ludacris, Chris Brown e Lil Wayne. È vero, David Guetta quest'estate ci ha fatto saltare veramente per una stagione intera, ha fatto dei bellissimi pezzi ed è veramente un grande. Io volevo anche ricordare una cosa ai nostri ascoltatori che ci seguono da casa, in macchina, radio, web, insomma ovunque siete: non mandateci messaggini dove ci richiedete le canzoni, perché purtroppo, essendo una classifica, dobbiamo mantenere una scaletta, quindi non vi possiamo accontentare purtroppo sulle vostre richieste musicali, dopo sicuramente, però vi possiamo fare i saluti, insomma, e naturalmente farvi interagire con noi. Bene, andiamo avanti con la nostra classifica e passiamo alla numero 15, dove troviamo Imoda con Salvami. Sempre così, che tanto indietro non si torna. E va sempre così, che parli ma nessuno ascolta. E va sempre così, e va sempre così, che aspetti il sole e cade pioggia, e va sempre così, che credi di aver tempo invece già, invece a primavera. Questa era la posizione numero 15, Modà con Salvami. Bene, ritornando alla classifica dei personaggi che hanno fatto scalpore nel 2011, troviamo la posizione numero 3, Justin Bieber, Red Web, fronte artista musicale teenager più desiderato al mondo. Anche quest'anno ha dato il meglio di sé e noi glielo riconosciamo, è vero, è vero, è vero. Alla posizione numero 2 troviamo Adam Levine, Maroon 5. Il frontman della band americana si è mostrato super sexy nel video della mega hit Mob Like Jagger e ha tenuto banco nel bene e nel male nelle news gossip di tutto il mondo. Bene, alla posizione numero 1 chi ci poteva essere? Bruno Mars, è lui quello che ha fatto più rumore di tutti quanti. Questo è stato sicuramente l'anno di Mr. Mars, un Grammy vinto e diverse nomination, il brano It Will Rain nella colonna sonora di The Twilight Saga. Bene, andiamo avanti, io devo dare la linea alla regia per questo istante, ma torno da voi tra pochissimo, un bacio. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Treba! Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia. E questa era la numero 14, Michel Teló, I Say It Pego, spero di averlo detto giusto. E questa la dobbiamo dedicare da parte del nostro Marco Nicolosi, Nicolosi l'ha detto alla parte tecnica, ad Alessia da Castelbono. Alessia, quindi questa canzone era dedicata a te con tanto affetto da parte del nostro Marco. Bene, bene, bene, bene, ragazzi, io... E avete fatto allora la lista da mandare a Babbo Natale, la letterina e tutto? No? Io sì, ho fatto un'email. Poi andando avanti poi vi dico anche cosa ho richiesto al nostro caro Babbo Natale che è qua di fianco a me. Adesso settimana prossima avremo anche la Befana. Bene, andiamo avanti con la nostra bella classifica e passiamo alla numero 13, dove troviamo la fantastica Dolce Nera, L'amore è un gioco. È un meccanismo inafferrabile,

come la situazione italiana andrà insomma a migliorare oppure a peggiorare nei prossimi mesi. Si spera naturalmente in un miglioramento, insomma questa manovra dovrebbe portare un po' di respiro a tutti quanti, anche se ci aumenteranno le tasse a non finire, ma insomma speriamo che possa servire per il futuro. Bene, andiamo avanti con la classifica e passiamo alla numero 11, dove troviamo Giorgia con Inevitabile. L'amore poi cos'è? Dammi una definizione. Combinazione chimica o è fisica attrazione? Sai dire tu cos'è? Se ti innamorerai, sarà un incrocio di emozioni. Inevitabile, non ci sono spiegazioni. Non ci sono spiegazioni. Non è chiaro neanche a me. Si dice amore quando si accende, che più rovente non c'è, sbatterci contro è inevitabile, sta capitando proprio a me. Si dice amore se tutto prende, ma non ti importa perché, tanto lo sai che è. Serve, è questione sai di tempo, ci sorprende prima o poi. Questa era la posizione numero 11, Giorgia con Inevitabili. Vi ricordate poco fa quando vi ho detto che finalmente è arrivato l'inverno e il clima è natalizio? Bene, detto fatto, il bello della diretta è anche questo. Ragazzi, durante il pezzo di Giorgia qua fuori si è scatenato l'inferno. Una grandinata che ogni chicco era grande veramente come un chicco d'uva. Io dormo in radio, ve lo comunico ragazzi, perché se continua così mi potete venire a prendere con i cani e la slitta, perché qui a Cefalù io la grandine l'ho vista pochissime volte. Comunque il freddo è bello polare, i fulmini ci stanno facendo un set fotografico praticamente, perché vediamo i fulmini sul mare, i lampi che sono veramente vicini. Comunque andiamo avanti con la classifica, imperterriti noi continuiamo. Posizione numero 10, Alessandra Amoroso, È vero che vuoi restare? È quasi mattina, continua a dormire se vuoi, che stare in silenzio ci fa meno male. Magari torno più tardi, fuori fa freddo ma non tremo per quello. Fuori fa freddo e dentro inverno, e un giorno rinasce mentre siamo impegnati a perderci. Sarebbe un peccato restare a guardare. Oggi mi sembra diverso, il tuo buongiorno amore non è lo stesso. Ieri era estate ed oggi inverno. Fermati un attimo e dimmi che cosa vuoi fare, però che vuoi restare. E questo tempo difficile va male, ma sì, abbiamo ancora tutto da inventare. Guarda che non si cancella una vita così, che te lo dico a fare. E questo amore impossibile è la storia di un film che non ha mai un finale. È vero che vuoi restare, è vero. Si incrocia in cucina come macchine ferme a un semaforo. Ti dico un segreto, non so abbandonare. Anche se tutto è diverso, ho così freddo amore, credimi adesso. Domani estate finirà l'inverno. Fermati un attimo e dimmi che cosa vuoi fare, però che vuoi restare. E questo tempo difficile va male, ma sì, abbiamo ancora tutto da inventare. Guarda che non si cancella una vita così, che te lo dico a fare. E questo amore impossibile è la storia di un film che non ha mai un finale. È vero che e questa era la posizione numero 10, Alessandra Amoroso, è vero che vuoi restare. Questa la dobbiamo dedicare da parte sempre del nostro Marco a Rosalia da Tusa. Rosalia, questa te la dedica Marco, che è un grande. Rosario, scusa, Rosario da Tusa, è vero, scusatemi, errore qua, mi scrivono tutto sui foglietti, non si capisce mai niente. Bene ragazzi, io vi voglio comunicare che ho la neve sul balcone della radio. Questo è importante dirvelo, perché poco fa è venuto Antonio insieme a Marco, abbiamo aperto la finestra e abbiamo trovato il balcone con la neve, quindi sappiate che siamo bloccati in radio con i polaretti, infatti. Bene, noi continuiamo imperterriti, andiamo avanti con la nostra bella classifica. No, andiamo un attimino, io do la linea alla regia e ci risentiamo tra poco. Ciao bella gente, aiuto. Get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no, I get a good feeling, yeah. Yes, I can. Doubt, better leave. I'm running with this plan. Pull me. Can't have me, I'll be the president one day, January 1st. Oh, you like that gossip, like you the one drinking what gossip.com. Now I got a word for your tongue, how many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit, speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like the wind in my chest that that's on. G5 in the U.S. to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I was a needle in a haystack. I'm a body boy, plus way back. I got a feeling it's a rap, ASAP. Get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. The mountaintop, walk on water, I got power, feel so royal. 1 second, I'ma strike for you. Diamond, platinum, no more for you. That adrenaline, never giving in. Giving up's not an option, gotta get it in. Witness, I got the heart of 20 men. No fear, go to sleep in the lion's den. That glow, that spark, that crown. You're looking at the king of the jungle now. Stronger than ever, can't hold me down. 100 miles gunning from the pitcher's mouth. Straight bang face, it's gang day. See me running through the crowd, full of melee. No trick plays, I'm Bill Gates. Take a genius to understand me. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Questa era la numero 9, Florida Good Feeling. È ufficiale, il nuovo singolo di Madonna uscirà a fine gennaio 2012. Ad annunciarlo è stata la regina del pop, dopo le continue conferme smentite in merito. Madonna conferma la pubblicazione di Give All You Lovin', la versione definitiva della demo Give Me All You Love, che si era diffusa in rete qualche settimana fa. La versione definitiva del pezzo vede a fianco di Madonna due giovani stelle del panorama hip hop statunitense, quali Mia e Nicki Minaj. Luis Veronica Ciccone pubblicherà il singolo esattamente una settimana prima della sua attesa performance al Super Bowl, che si svolgerà il 5 febbraio prossimo a Indianapolis. Quindi mi raccomando, tutti i fans di Madonna, correte numerosi, perché ci sarà questo grandissimo evento e questo fantastico video in collaborazione con grandi superstar. Bene, andiamo avanti con la nostra classifica e passiamo alla numero 8, e questa me la dedico da solo, sono i Coldplay con Paradise. Questa era la posizione numero 8, Coldplay con Paradise. È una notizia appunto dei Coldplay. È già tutto esaurito l'unica data live del Coldplay in Italia nel 2012. La vendita dei biglietti per il concerto che la band inglese terrà il prossimo 24 maggio allo Stadio Olimpico di Torino ha registrato il sold out a tempo di record. I biglietti sono stati acquistati in un tempo brevissimo e molti fan italiani non sono riusciti ad accaparrarsi un tagliando per questo attesissimo evento. La richiesta infatti è stata notevolmente superiore al numero di biglietti disponibili per lo show. Quindi solitamente quando accadono questi eventi, in base anche alla disponibilità delle organizzazioni, tutto quello che concerne l'organizzazione del concerto, fanno un'altra data. Io me lo auguro, anche perché i Coldplay sono un gruppo veramente fantastico che hanno riscosso un grande successo, quindi sicuramente sarebbe fantastico dare la possibilità anche agli altri fans di vedere un altro concerto. Speriamo che ne mettano un altro in programmazione. Andiamo avanti con la nostra classifica, e anche questa è una canzone che ci arriva, una bella dedica. È Sara che ci sta ascoltando e vuole dedicare il prossimo pezzo ad Alessandra e Daniela, augurando alle due ragazze un 4S quasi perenne, insomma, sempre. E questa è la nostra numero 7, dove troviamo il mitico David Guetta con Without You. Questa era la numero 7, David Guetta, Without You, canzone che la nostra Sara ha dedicato ad Alessandra e Daniela, augurando un 4S forever, glielo auguriamo anche noi. Fabri Fibra lancia il suo nuovo progetto Rap Star. Il rapper di Senigallia incontra una delle star italiane del freestyle, Clementino, e insieme danno vita ad un nuovo progetto di vero rap futuristico, che vede i due artisti condividere rime, beat, incastri, metriche, pensieri e provocazioni in orbita spaziale anno 2062, ragazzi. Il debutto discografico di Rap Star arriverà nei negozi il 31 gennaio con l'album Non è gratis, che verrà anticipato venerdì 23 dicembre con il lancio online del brano Chimica Brothers, prodotto da DJ Tayon, già al lavoro con Marrakesh e Video Mind. Quindi mi raccomando, non perdete questo appuntamento con Fabi Fibra e le sue nuove collaborazioni. Bene, andiamo avanti con la bella musica, con la nostra classifica, e passiamo alla posizione numero 6, canzone che il nostro caro Marco Nicolosi vuole dedicare a sua sorella. Troviamo Adele con Someone Like You. I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true, guess she gave you things I didn't give to you. Shy, ain't like you to hold back or hide from the light. I

sorride di com'è, l'altro piange cosa? Non è. E penso sia un errore. Hai otto, tre certezze, una pinta e qualche amico. Tu hai molte domande, alcune pessime, lo dico. Elementare, non voler andare via. La mia vita mi fa perdere il sonno sempre, mi fa capire che è evidente la differenza tra me e te. Poi mi chiedi come sto e il tuo sorriso spegne tormenti delle domande, a stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi perché. E se la mia vita ogni tanto azzerasse l'inutilità di queste insicurezze, non te lo E questa era la posizione numero 5, Tiziano Ferro, la differenza tra me e te. Bene, ci chiedono se Tiziano è veramente amico del nostro Marco che lavora qua in radio insieme a noi. Beh no, non è che sono amici, però insomma diciamo che c'è un certo feeling. Marco, dov'è Marco? Antonio, non lo vedo più. È nascosto là dietro al PC, vieni, esci fuori. Dai, adesso hai sistemato ancora una volta il microfono a Babbo Natale. Io voglio vedere cosa mi combini per l'Epifania. Mi porterà sicuramente una Befana fatta con una bambola gonfiabile, vero? Io già immagino tu cosa fare qua dentro per la Befana. Poi ne riparleremo comunque. Andiamo avanti e passiamo alla posizione numero 4, dove troviamo la spumeggiante Rihanna. Vi faccio ballare We Found Love. Questa era la posizione numero 4, l'esplosiva Rihanna, We Found Love, pezzo bellissimo che mette veramente una grande carica. Sapete ragazzi, ho appena notato e ci ho fatto caso soltanto adesso guardando il calendario che questa è l'ultima diretta prima del Natale, quindi noi andremo poi in diretta lunedì prossimo che è il 26 dicembre, Santo Stefano, il mio santo preferito, sottoscritto fa il santo il 26, lunedì prossimo, quindi la diretta sarà, cosa ridete, sì, certo, mi asciugo tutto, infatti, no, Santo Stefano andremo nuovamente in diretta, Quindi caspita, poi dovremmo fare più tardi anche gli auguri per il Natale, perché non andremo più in diretta fino al giorno di Santo Stefano, di conseguenza ci facciamo gli auguri dopo, Sì, infatti, grazie Antonio, ogni tanto Antonio si fa sentire, dobbiamo microfonare anche lui, a parte qua Babbo Natale, Prossima puntata microfoniamo tutti quanti, Marco, Antonio, la Befana che ci sta raggiungendo, tutti! Bene, siamo sul podio della nostra classifica, la posizione numero 3, posizione di bronzo, dove troviamo il grande James Morrison con I Won't Let You Go. When it's black, take a little time to hold yourself, take a little time to feel around before it's gone. You won't let go, but you still keep on falling down. Remember how you saved me now from all of my wrong. Yeah. And if this love just feeling, if this life was seeing, there's no time to be alone, alone. Questa era la posizione numero 3, James Morrison, I Won't Let You Go, la posizione di bronzo della nostra classifica, perché è la numero 3. Bene, quindi ragazzi, Marco, Antonio, io lunedì prossimo, quando ci vediamo qua, che è Santo Stefano, ci presentiamo con i regali di Natale e ce li scambiamo, che ne dite, va bene? Marco, vedo che è d'accordo, ha fatto un segnale di... Sì, era convinto che poteva fare sicuramente anche lui un bel regalo. Guarda, io non voglio niente, dai. Io voglio soltanto regalare a tutti quanti che sia un Natale sereno e bello per tutti quanti, che le famiglie lo possano trascorrere in armonia. Bene, andiamo avanti. Posizione d'argento, la numero 2, dove troviamo la fantastica Laura Pausini con Benvenuto. Scarpe fradice, a chi ha parole cattive soltanto perché non ha saputo chiarire con sé, a chi supplica e poi se ne dimentica, a chi non ha un segreto da sussurrare ma una bugia da sciogliere. La numero 2, posizione d'argento della nostra classifica, Laura Pausini con Benvenuto, benvenuto questo Natale, che sia un Natale ricco di gioia, ricco di amore per tutto il mondo, che veramente questo Natale possa portare amore e serenità in tante case, a tante famiglie in tutto il globo, senza distinzioni di razza, sesso, colore, quello che sia, insomma. Io è questo il regalo che voglio per quest'anno, voglio che sia veramente l'anno finale di tutte le problematiche a livello mondiale, che veramente il 2011 possa cancellare tutto e faccia in modo che inizi il 2012 in modo sereno per tutti quanti, per un 2012 veramente diverso all'insegna dell'amore e del rispetto verso tutti coloro che in questo momento non stanno molto bene. Ok, passiamo alla posizione numero 1 di questa settimana. Il disco più trasmesso della settimana su CRM Happy Radio, la numero uno della Speedy Top. Ah, sentila che bella, vedi, io questa canzone qua l'ascolterei di continuo, ma dimmi te se non è una canzone fantastica, eh? Last Christmas, guarda che stupenda, è meravigliosa. Ogni tanto io quando sono a casa o in ufficio metto questa canzone, ma anche se non è Natale, perché comunque è una canzone che è bella, cioè ti mette allegria, ti riempie il cuore di gioia. Adesso sì, sto diventando un po' romantico, però dai, bella, bella, non c'è niente da fare. Dimmi te se una canzone del genere nel periodo di Natale non ti mette armonia e gioia addosso. È stupenda, poi il testo è bellissimo. Dai, insomma, ragazzi, insomma, io la voglio ascoltare tutta. La possiamo ascoltare tutta? No, no, no, no, giusto, è soltanto l'intro, l'abbiamo messa giusto perché siamo nel periodo di Natale, ma è soltanto il sottofondo musicale dove io purtroppo devo parlarci sopra. Bene, la posizione numero uno, la nostra posizione d'oro, la numero uno di questa settimana è Maroon 5, Mob Like Jagger. Control, so we waited. I put on a show. E questa era la posizione number one, la posizione d'oro della nostra classifica, i Maroon 5 con Move Like Jagger. Bellissimo sto pezzo, abbiamo ballato, abbiamo fatto il trenino, abbiamo fatto ballare anche il caro nostro Babbo Natale che è qua con noi questa sera. Bene ragazzi, anche questa settimana siamo arrivati alla fine di Speedy Top in diretta qua su CRM Happy Radio, ogni lunedì sera dalle 21 in poi in diretta con il sottoscritto Stefano Scalia. Bene, io voglio ringraziare il nostro grandissimo DJ Antonio Glorioso, alla parte tecnica il grandissimo Marco Nicolosi, voglio ringraziare Sara, Alessandra, Daniela, l'amica di Alessia Castelbuono, Giulia che ci sta ascoltando da Faenza, voglio ringraziare e abbracciare tutti quanti, voglio augurare un ottimo, un bellissimo, un fantastico Natale a tutti quanti voi che ci state ascoltando e vi voglio dire grazie. Ciao, alla prossima, bella gente! CRM. Il regista aspettava la star al ristorante, sembrava un morto con in mano un bicchiere. Oh. Il ragazzo lavorava in un bar ed aspettava che il padrone se ne andasse per potersi sedere. Il dentista aspettava il sabato con la moglie e tre figli, era già pronto per il mare. Il tassista al posteggio aspettava qualcuno da portare. E chi l'ha vista? La ragazza con le grandi tette che tutte le sere alle sette e un quarto aspettava. Aspettare a cercar di fermare questa vita che passa accanto e con le mani ti saluta e va bye bye. Questa vita un po' umida di pianto, con i giorni messi male, vista dall'alto sembra un treno che non finisce mai. Neppure se coperta dalla neve o se sparisce sottoterra e non si vede, si ferma. Al traffico. Ma Dio mio, e se si provasse a